Alcuni di voi magari avranno già sentito parlare gli anni passati di Human Motor. Human Motor è una biciclettata nata nel 2008 per criticare il Motor Show, la rassegna, la kermesse del motore dell'automobile, in quanto l'automobile è mezzo inquinante, mezzo che domina le strade, una delle principali cause di inquinamento. La ciclofficina, il mondo delle ciclofficine, dei ciclisti e delle critical mass, appunto, ci tiene a far vedere la propria presenza nelle strade nei giorni in cui invece c'è questa kermesse del motore dell'auto. Quest'anno è un'edizione speciale, intanto perché la riprendiamo dopo qualche anno di pausa. C'era stato questo dubbio che non ci fosse più un Motor Show, era un po' in crisi quello, eravamo un po' in crisi noi, siamo tornati tutti e due, ai noi, però con Human Motor di quest'anno vogliamo rilanciare questo appuntamento. E lo vogliamo rilanciare quindi in Piazza dell'Unità, sabato 9 alle 15, da cui partiremo con questa, con una critical mass, una biciclettata, un ritrovo spontaneo tra ciclisti per girare per le strade di Bologna, e a contorno di questa critical mass inaugureremo venerdì dei nuovi spazi della ciclofficina popolare Ampio Raggio, sempre dentro XM24, perché vogliamo dare insomma un po' di risposte al comune che ci incalza per andarcene dagli spazi. Noi non abbiamo intenzione e quindi vogliamo continuare a migliorare e ingrandire i nostri progetti, e quindi da venerdì ci sarà un nuovo pezzo di ciclofficina aperto. Nel frattempo compiremo anche 10 anni di ciclofficina dentro XM e vogliamo festeggiare. Per quanto riguarda l'ultima data, la domenica, ci sarà un'assemblea, l'abbiamo chiamata intergalattica, delle ciclofficine popolari e dei ciclisti radicali, che cerca di costruire una rete tra soggetti e collettivi al di fuori di Bologna, anche per legare il tema della bicicletta e della critical mass alle lotte ambientali. E a proposito di quest'ultime, il venerdì inaugureremo Human Motor di quest'anno con la bicicletta della Madonna contro Fico, che partirà alle 14 da XM24. Tu parlavi di questa rete che volete creare tra ciclofficine popolari, sono realtà diffuse in Italia? Beh, direi di sì, nelle maggiori città italiane è presente almeno una ciclofficina popolare. Diciamo che è una rete che sarà tentato di costruire anni fa, che poi si è un attimo tranquillizzata, diciamo, che però si trova ogni anno per la Cemona, che è la critical mass che si organizza a fine maggio ogni anno, che 2 anni fa c'è stata a Bologna, l'anno scorso a Bari, e l'anno prossimo la faremo tutti assieme a Firenze, appunto ciclisti, ciclofficine popolari. Tornando ai temi insomma della nostra città, la contestazione al Motor Show insomma è chiara nel significato. Abbiamo visto però anche recentemente, con la campagna di risveglio civico dell'amministrazione guidata dal sindaco Virginio Merola, molte polemiche da parte appunto dei ciclisti, che hanno visto questa iniziativa come una sorta di crociata contro i ciclisti. Ti chiedo 2 parole su questo. Una crociata di fatto, anche visto l'aumento del numero di multe fatte ai ciclisti cosiddetti indisciplinati, che vanno contro mano e sotto i portici. Insomma, noi lo diciamo in maniera veloce nel comunicato di indizione: andare in contromano o andare sotto i portici a velocità ridotta quando piove non ci sembra che siano i problemi più grossi della strada, anzi non crediamo che lo siano. Le strade hanno ben altre preoccupazioni, gli incidenti sono ancora una delle più alte cause di mortalità e la macchina continua a dominare sulle strade. Insomma, non si risolve il problema disciplinando i ciclisti, si risolve il problema costruendo una coscienza diversa di mobilità che non metta sempre al centro l'automobile. Ti sembra che l'amministrazione abbia questa consapevolezza? Ma mi pare proprio di no, ha provato a darne l'impressione qualche anno fa con un assessore alla mobilità sostenibile, non abbiamo visto alcun risultato rilevante, abbastanza di facciata come soluzione ai ciclisti. Certo, c'è stata la tangenziale di biciclette e un tentativo di servizio di bike sharing, ma diciamo che la maggior parte delle piste ciclabili di Bologna sono un disastro e non si risolve ancora una volta il problema semplicemente spostando i ciclisti su percorsi adeguati solo per loro, esclusivi.